per tornare a casa, presa all'ultimo minuto. Quante volte mi è accaduto di averlo visto partire sullo scomodo sedile di una carrozza indecente. Pensa a tutto e a niente in questa buia mattina d'aprile. Non vedo il vento, ma sento che mi passa a fianco. Lentamente mi faccio cullare, i miei occhi cominciano a sognare il sogno di una semplice vita, e non cerco più un nesso tra le parole. Sento il bisogno di urlare forte, strappare con queste catene la sorte, lasciare che la mia vita non sia se un binario preciso che ci porti via. Sento il bisogno di urlare forte, strappare con queste catene la sorte, ma lascia che mi culi ancora un altro po' questo treno legato tra routine sotto.